Ciao, io sono il nord. Ciao, io sono il sud. Io corro molto veloce. Io no. Io corro veloce perché ho due gambe lunghe e possenti. Io non corro, cammino, ma faccio una fatica. Te lo dico io perché? Perché non ti va di fare niente, sei il solito sfaticato. Ma no, è che ho il mio problema. Ecco, ecco il solito sud piagnone. Ma che piagnone, dai, lo sai qual è il mio problema? No, non so niente. Sentiamo perché non ti va di correre, di quale problema parli? Ma del fatto che mi manca una gamba. E capirai! Ma come capirai? Mica ti ho detto che sono calvo. Anche senza una gamba si riesce a correre lo stesso. Io non ci riesco, a malapena cammino, saltellando. Ecco, hai trovato la solita scusa per giustificare il fatto che stai indietro da anni. Ma io non cerco nessuna scusa. E allora dai, prova a prendermi, dai, dai, dai. Ma senza una gamba non ci riuscirò mai. E sentiamo, come mai ti manca questa gamba? L'hai persa. Perché sei il solito sud distratto. Ma che distratto, è stata un'amputazione. Ah, capisco, ti si era incancrenita? No, era sanissima. Ah, capisco, la solita mala sanità meridionale. No, in realtà la mala sanità non c'entra nulla. E allora sentiamo, com'è andata, com'è successo? Caro Nord, non far finta di non ricordare. Cosa dovrei ricordare, caro Sud? Che sei stato tu a tagliarmela, caro Nord. E perché mai avrei dovuto farlo? Ma forse perché correvo più di te? Bugiardo! Ma è la verità. E sentiamo Sud, dove sta scritta questa verità? Sui libri di scuola, non di sicuro. Ammesso che, come dici tu, è successo 150 anni fa. Ho capito, ma in 150 anni la gamba mica mi è ricresciuta. Fatti una protesi. Non ho i soldi. Con tutti quelli che ti do per mantenerti, ma che fine gli fai fare? Mi servono per mangiare. Mangiare. Pensi sempre a mangiare, ma non vedi che sei grasso? Un amico mio, proprio quando aveva imparato a non mangiare più, caro Nord, sai che gli è successo? È morto. Ma capro sarcasmo! Io senza di te correrei molto più veloce. Tu al mio piede sei una palla, caro Sud. E tu al mio piede sei due palle, caro Nord. Ecco il solito Sud volgare. Potessi avere un po' più di risorse, magari potrei provare a farmi una protesi, magari lega. Scordatelo, ho già speso troppo per te, sei un inutile storpio. Ma io Nord, la gamba ce l'avevo. Ma chi se lo ricorda? Io me lo ricordo ogni volta che cerco di correre e non ci riesco. Oh, senti Sud, non ho più tempo da perdere con te, io devo correre, devo raggiungere la Francia, la Germania, l'America. Io in Francia, in Germania, in America ho milioni di parenti. Ah, se per questo siete in milioni anche qui da noi, Tarun, dai corri. Ma non ce la faccio, Nord, oltre a mancarmi una gamba, sono anche trattenuto dalla piovra. Scuse, cerchi scuse perché non ti va di correre, sei uno sfaticato. Io vado avanti, ci si rivede, ciao, aspetta, Nord, aspetta. Altrimenti io, come Sud, se resto sempre indietro, mi sa che cambio strada. Zompe vola, addostane nella mia, non fermarti per la via, vola zompa che la, coliscele la salute, falle festa, attorno, e le dicere che notte e giorno, io sto sempre a sospirare. Palumella vola alla rosa destu cor, non c'è sta più bello ciore che t'avessa da piace, con l'addore che tu senti e a chi l'occhi, a chi l'uriso crederai che ampara vise, tu si giuto i palumè. Pancella dicere che io mi moro, palomma mia, rincella tu, Mancella di cere, caiem amore, paloma mia d'incella. Io non sapevo di essere meridionale, nel senso, non avevo mai attribuito un valore positivo o negativo al fatto di essere nato più a nord o più a sud di qualcun altro. Mi ritenevo solo fortunato per essere nato in Italia, tra gli italiani più fortunati, perché vivevo sul mare. Io ho sempre creduto ai libri di scuola, alla leggenda di Garibaldi, eroe dei due mondi, a Cavour, grande tessitore dell'unità d'Italia, a Vittorio Emanuele II, padre della patria, e mi sono sempre commosso allo sventolio del tricolore, all'inno di Mameli, al passaggio della fanfara dei bersaglieri. Io non sapevo che i piemontesi fecero al sud quello che i nazisti fecero a Marzabotto, ma tante volte, per anni, e cancellarono per sempre molti paesi in operazioni antiterrorismo, come gli americani in Iraq. Non sapevo che durante le rappresaglie i soldati piemontesi si concessero anche il diritto allo stupro delle donne meridionali, come i serbi nei Balcani durante il conflitto etnico, o come i marocchini delle truppe francesi in Ciociaria nell'invasione da sud per redimere l'Italia dal fascismo. Ignoravo completamente che in nome dell'unità nazionale i fratelli del nord si concessero anche il diritto al saccheggio delle città meridionali, come i Lanzichenecchi a Roma, e che praticarono la tortura, come gli americani da Abu Ghraib, i francesi in Algeria, Pinochet in Cile. Non sapevo che in Parlamento a Torino un deputato ex garibaldino paragonò la ferocia e le stragi dei piemontesi al sud a quelle di Tamerlano, Gengis Khan, Attila, e che un altro preferì tacere rivelazioni di cui l'Europa potrebbe inorridire. Non sapevo che i meridionali furono imprigionati senza accusa, senza sentenza, senza condanna, come gli islamici a Guantanamo. Lì qualche centinaio, terroristi per definizione, perché? Perché musulmani. Da noi centinaia di migliaia, briganti per definizione, perché? Perché meridionali. E se bambini, briganti precoci, brigantesse, le mogli e le figlie dei briganti, o solo consanguinei fino al terzo grado di parentela, o persino soltanto paesani o sospettati tali. Tutta norma di legge, si capisce, come in Sudafrica, no? Con l'apartheid. Beh, io credevo che i briganti fossero proprio briganti e non anche ex soldati borbonici o patrioti alla guerriglia per difendere il proprio paese invaso. Io non sapevo che il paesaggio del sud divenne come quello del Kosovo, con fucilazioni di massa, fosse comuni, paesi che bruciavano sulle colline e colonne di decine di migliaia di profughi in marcia. Non volevo credere che i primi campi di concentramento e stermini in Europa furono istituiti dagli italiani del nord per torturarvi e farvi morire gli italiani del sud. Come potevi immaginare che stavamo così male nell'inferno del Borbone che per obbligarci a entrare nel paradiso portatoci dai piemontesi ci vollero orribili rappresaglie, strade, una dozzina d'anni di combattimento, leggi speciali, stati d'assedio, lager, e che quando riuscirono a farci smettere di preferire la morte al loro paradiso, scegliemmo piuttosto di emigrare a milioni, e non era mai successo. Io avevo sempre creduto ai libri di scuola. Io tutto questo non lo sapevo. Ah, quant'era bella la terra nostra, che oggi se n'è persa quasi la traccia, piena di leggi e prospera di civiltà. E me la voglio tenere a mente, come una canzone la voglio cantare, bella come due innamorati, gli occhi di fronte al mare. Ah, quant'era bella la patria nostra, quando un tempo regnava le due Sicilie, e io la sento e non trovo le parole. E me la voglio gambe e d'anima che non ci sono più. E voglio, figlio, che te la senti e lo sai pure tu. Fiore di campo, fiore spezzato, voglio e te canto, fiore rubato. Fiore di campo, fiore spezzato, voglio te chiamo, fiore rubato, quanto te chiamo. Fiore rubato. Maestro, però forse abbiamo cominciato in maniera un po' troppo irruenta. Eh sì, anche no. Troppo... anche alta. No, troppo sangue, lave sì, di sangue. Mamma mia, poi dopo sì. Tutto i meridionali siamo abbastanza così, come dire, allegri, no? Certo. Pieni di fantasia, di vitalità, di allegria. Allora facciamo un gioco di società, ci stai? Così cioè, rallegriamo un po' la situazione. Certo, facciamo certo. Una cosa, io comincio a fare un elenco di luoghi comuni che definiscono più o meno il sud e tu lo continui, ci stai maestro? Certo. Allora, al sud si ha un sistema sociale retto da illegalità e mafia. L'attenzione all'igiene personale, alimentare al sud è più precaria che al nord. Boom. Maestro, fammi sta cosa. Fammi boom. Ci stai pure tu, Carlotto? Facciamo boom. Ci stai pure tu, famo boom. Allora, al sud si ha un sistema sociale retto da illegalità e mafia. Boom. L'attenzione all'igiene personale e alimentare al sud è più precaria che al nord. Boom. Giù barano dagli alti voti immeritati a scuola e concorsi pubblici. Boom. Quelli del sud vogliono il posto fisso, meglio se pubblico. Boom. Boom. Le università del sud sono molto meno efficienti di quelle del nord. Boom. Boom. Gli studenti del sud sono molto più capo di ciucci di quelle del nord. Boom. Boom. Continua? Ti viene niente? Non mi viene, cara. Boom. Mi viene ci dai prima mattina. Allora, facciamo una cosa. Questo elenco, se vi servono suggerimenti, basta che digitate Borghezio su internet e vi uscirà una valanga di luoghi comuni che definiscono appunto il sud secondo Borghezio e quelli come lui. Ma fatela dopo, insomma, perché l'elenco rischia di essere davvero lungo. Però alla fine di questo lunghissimo elenco, fatevi la domanda. Perché? Perché? Cioè è indubitabile che il tessuto sociale del sud è lacero, le città sono più sporche, l'amministrazione è più corrotta, la criminalità micro e macro più radicata e diffusa. Ma la domanda resta, perché? Proviamo a rispondere allora. Risposta numero uno, perché i meridionali sono proprio loro, sono meridionali, sono fatti così. Risposta numero due, le circostanze inducono i meridionali a comportarsi così. Ovvero l'uomo è quello che gli viene permesso di essere. Se si dà retta alla prima ipotesi, la logica conclusione sarebbe: non sono come noi, signora. Si intende che sono qualcosa in meno. È un'idea diffusa, non importa se fondata o no, sia a nord sia a sud. Se la si accetta, se ne devono trarre le dovute conseguenze, ossia che gli abitanti dell'Italia del sud hanno connaturato in sé il furto, la corruzione, l'indolenza e l'indecenza, la sporcizia, l'incapacità di amministrare da sé o di farlo onestamente, insomma, appartengono a una specie umana inferiore, come se nel cammino per l'evoluzione si fossero fermate sulla soglia della civiltà senza riuscire a varcarla del tutto, altrimenti come ti spieghi che nonostante tutto quello che si fa per aiutarli restano indietro da 150 anni, mentre quegli altri del nord progrediscono? Nonostante la palla al piede del sud, né ha senso dire sono come noi, che non vogliono comportarsi come noi, ovvero amano vivere nella monnezza, prendere treni che fanno 100 km in una quindicina di ore, se gli va bene, se arriveranno mai, farsi curare malissimi in ospedale fatiscenti che gli crollano addosso, Gli piace tantissimo essere taglieggiati dai mafiosi, è uno sport proprio locale. Ecco, impazziscono a vivere male con le pensioni di invalidità, si trascinano inutilmente tutto il giorno pur di non fare nulla. Gli piace moltissimo mandare i figli a scuola in edifici che gli crollano addosso. Vedi che non sono come noi! E beh, potrebbe anche essere. Sui gradini dell'evoluzione e della civiltà i meridionali si sono fermati senza riuscire ad arrivare ai livelli che so io di un Renzo Bossi, va? Il Trota. Sapete che si chiama il Trota? Perché è figlio di una grandissima Trota. È paradossale? No, dico il discorso della minorità meridionale. Eppure viene tranquillamente utilizzata. Allora, diamolo per assodato. I meridionali sono inferiori. Cazzo, cazzo, minchia, minchia, direbbe la qualunque, no? Ma se lo sono, non possono che rimanerlo ovunque vadano. Non è che tu uno scimpanzé se lo prendi dalla giungla e lo porti ad Harvard, se laurea, no? Altrimenti bisognerebbe ammettere che inferiori non sono e che il loro stato di presunto reale minorità dipende da fattori e cause a loro esterni, indipendenti da loro stessi, giusto? Questo può darsi che Bossi lo capirà quando prenderà per la quarta volta la laurea in medicina o semplicemente dirà di averla presa, come le precedenti tre. Per dire, com'è che i meridionali che vivono al nord non buttano le carte a terra? Fanno la raccolta differenziata, lavorano come gli altri, hanno carriere interessanti, creano nuove imprese, non passano col rosso, al nord soprattutto, evadono le tasse come tutti gli altri. Ce n'è persino che diventano civili come Borghezio, e guarda che ti sto dicendo, colti come la Maria Stella Gelmini, simpatici come Salvini, equilibrati come Calderoli, umani come Gentilini, votano leghiste e dicono quelle non sono come noi, signora! Sottolineano l'accento per sottolineare la conquistata differenza. Vuoi vedere che la risposta è del secondo tipo, cioè più che nell'uomo nelle sue condizioni? Si rimbalza da siamo diversi alle circostanze ci fanno diversi. Nel primo caso si sarebbe subumani o se preferite subpadani. Nel secondo esseri le cui azioni sono indotte dall'ambiente. The Experiment. Un film. Su decine di candidati volontari ne vengono selezionati 18. Sono i più normali, non si conoscono tra di loro, sono tutti pacifisti, colti, in perfette condizioni psicofisiche. Per sorteggio a metà di loro si dà il compito di carcerieri. Gli altri saranno i detenuti. La prigione sembra vera, ricostruita in un seminterrato. Ognuno è libero di andarsene quando vuole. È domenica. L'esperimento durerà 2 settimane. Primo giorno, secondo giorno. Il ruolo sopravanza talmente la personalità dei partecipanti che in poche ore detenuti e guardie si convincono di essere davvero quello che dovrebbero fingere di essere. Qualunque cosa fossero quei ragazzi, al loro posto non c'è più. Sono apparse altre persone, figlie del ruolo. Terzo giorno, quarto giorno, violenza, violenza. Quinto giorno, sangue. La quasi totale distruzione psicofisica dei partecipanti genera tali eccessi di violenza che si teme di non poterne controllare gli sviluppi estremi, criminali. Doveva durare 2 settimane. Il sesto giorno viene interrotta. Un incubo. Un laboratorio. Italia. 1861. Si dà inizio ad un esperimento di psicologia sociale. I partecipanti vengono distinti in 2 gruppi sperimentali, indotti ad interpretare una parte. Gli abitanti dell'Italia del Nord saranno le guardie, quelli del Sud, i detenuti. Siamo in un immenso carcere. Siamo nel regno delle 2 Sicilie. Migliaia di persone imprigionate senza accusa, senza sentenza, senza condanna, con accuse pretestuose, processi farsa, sentenze terribili. C'è lo stato d'assedio, la soppressione di ogni libertà, l'arbitrio degli occupanti sulla vita e i beni dei conquistati, l'istituzione di campi di concentramento per decine di migliaia di persone. In poco tempo i meridionali cominciano a sentirsi impotenti, depressi, si convincono di essere inferiori, mentre le guardie del nord interiorizzano dei valori distruttivi che li rendono dei persecutori per giustificare i loro continui abusi. Hanno bisogno di vedere gli altri inferiori. Napoli è una fogna, va derattizzata. Pochi giorni per l'esperimento, 150 anni per l'Italia. La superiorità morale ed etnica del nord e la conseguente inferiorità del sud sono ormai articoli di fede. Nell'Italia unita a mano armata non tutti i meridionali accettano le condizioni del sud postunitario, l'enorme carcere che è diventato. Qualcuno evade. 13 milioni in un secolo, forse più di 20, il più grande esodo che abbia mai conosciuto l'Europa. Rimane chi non può, chi non ha voglia di lottare, chi scende a patti con l'apatia, con chi detiene il potere. Ti vogliono convincere, ti convinci, che c'è una tua incapacità alla radice dei tuoi mali, dei tuoi ritardi. Per la teoria del mondo giusto hai quel che ti meriti, in quanto esponente di una specie incompiuta, l'Homo sapiens sapiens minor, atque terronicus. Am abusate chitarra e tambor, perché sta musica sa da cagnare. Simma brigante e facimma paura, e qua scuppetta pulimma canta. E che scuppetta pulimma canta. E mo cantamma una nuova canzone, tutta la gente se la tramparà. Non ce ne fottero né borbone, e a terra nostra è un santa tucca. E a terra nostra è un santa tucca. Chi ha visto lupe se mise paura, non sa bene qual è la verità. Io vedo lupe che magna creature, e o piemontese che vi magaccia. Femmina bella, cadate lo cuore, si lubricante volete salvare. Non lo cercate, scordate un uomo, chi ce fa guerra non tiene pietà. Chi ce fa guerra non tiene pietà. Uomo se nasce brigante se muore, ma fino all'ultima vima spara. E si morì menate in un giorno, e noi stiamo per sta libertà. Da dove passa Garibaldi, arriva la libertà e spariscono i soldi. L'Italia è costata al sud centinaia di migliaia di morti, decine e decine di paesi completamente rasi al suolo, l'annientamento dell'economia del regno delle due Sicilie, milioni e milioni di emigranti che con le loro rimesse hanno consistentemente aiutato l'economia italiana e la sparizione delle casse del regno delle due Sicilie. Ma quanto grande era quella montagna d'oro? Francesco Saverio Nitti, che abbia accesso agli atti, contò che dei 664 milioni di lire che i vari stati versarono nelle casse della nascente Italia, circa due terzi, ossia 443 milioni di lire oro, provenivano dalle casse del Regno delle Due Sicilie. Più di metà del debito lo portava il Piemonte. Ma quanto sarebbero in oro oggi 443 milioni di lire oro? In euro? Sarebbero circa 500 miliardi di euro. E non è solo quello, perché se si considera l'oro circolante, nel regno le monete erano ancora d'oro, che era almeno il doppio di quello che si aveva nelle casse, la somma razziata arriva a 1.500 miliardi di euro. Furono molto di più se si pensa ai furti, furti nelle case, negli enti, nelle chiese, nelle regge. Complessi calcoli porterebbero a cifre ben più significative, ma atteniamoci alla cifra che è possibile dimostrare, 500, 1500 miliardi di euro. Come si fa a capire quant'è una cifra del genere? Per gente normale, che è abituata a fare i conti con poche decine o centinaia di euro. Ecco, in questi casi io ho un modo, proviamo a capirlo. Comunque, allora, nel 2008 la ricchezza prodotta da tutta l'Italia, compresa la locomotiva trainante del nord, per tutto il corso del 2008 la ricchezza prodotta è stata di 1.273 miliardi, quasi 1.500. Però ancora non capisco. Allora, in questi casi io faccio una cosa, abbasso di un ordine di grandezza alla volta fino a quando non arrivo a capire di che cifra si tratta. Allora, 1.500 miliardi meno un ordine di grandezza sono 150 miliardi. Ecco, questa è la ricchezza prodotta da tutta l'Italia in un mese e mezzo circa. Però ancora non capisco. Abbasso di un altro ordine di grandezza, 15 miliardi. Ecco, questa è la cifra con cui, prima dell'avvento del governo Monti, che sembra sia successo 1000 anni fa, ma è successo 15 mesi fa, giustamente ci ha fatto passare un'era per come ci ha ridotto, ma insomma, ecco, è successo soltanto 15 mesi fa, ecco, con 15 miliardi ci faceva una finanziaria di quelle toste, o due o tre di quelle leggere, cioè stavamo a posto per qualche anno senza aumentare le tasse o senza tagli alla cultura, alla sanità, alla giustizia, eccetera, eccetera. Abbassiamo di un altro ordine di grandezza, 1,5 miliardi di euro. Ecco, questo è un terzo della cifra con cui Berlusconi e Tremonti volevano fare un nuovo piano Marshall per risolvere la questione meridionale, che Silvio, per modestia, aveva chiamato piano Berlusconi. Lasciate stare che non l'hanno fatto, mica ci avevamo creduto, giusto così per capire le cifre, no? Però ora comincio a capire quanti sono 1.500 miliardi di euro, se loro con 4,5 miliardi volevano risolvere la questione meridionale. Sarebbero circa 333 questioni meridionali risolte. E allora perché non l'hanno fatto neanche una volta? Vabbè, che domande. Quelli ci hanno messo 150 anni a crearla, adesso la distruggono così, e poi di che campano? Ovviamente non basterebbero 4,5 miliardi. Vogliamo fare il doppio? Vogliamo fare il triplo? Vogliamo arrotondare? 15 miliardi di euro, va! Ecco, 15 miliardi di euro che nessuno ha mai stanziato e nessuno mai stanzierà. Se dovessero ridarci indietro i soldi che è possibile dimostrare che sono stati presi dal sud in oro e portati al nord, ci dovrebbero ridare appunto 15 miliardi di euro all'anno per 100 anni. Ce ne sarebbe per un ponte sullo stretto ogni 6 mesi e ne resterebbe per fare strade, ferrovie che dicono vorrebbero fare al posto del ponte e invece nell'uno e nell'altro. 15 miliardi di euro all'anno per 100 anni. Com'è, Borghezio, ti sembrano troppi? E perché non ti sono sembrati troppi quando l'avete presi? Ah, non lo sapevi, giustamente. E beh, ci siamo qui noi adesso a ricordarvelo. Ecco, dall'unità, mentre al sud si cominciò a morire per una nuova malattia che fu chiamata brigantaggio, al nord costruivano, gli allegri costruttori, e ponti, strade, ferrovie, ospedali, opere militari, porti, e la stazione di Milano, e la Mole Antonelliana. Se lo sono rifatti nuovi, giustamente, il nord. E poi fecero la Banca d'Italia, e al sud diedero 20.000 azioni contro le 280.000 del centro nord. Strana unità la nostra, secondo la quale quello che è mio è tuo e quello che è tuo perché non si tocca. Cosa direbbe Passera se scoprisse che per un decennio la Cassa Depositi e Prestiti ha mollato paccate di milioni a Liguria, Piemonte, Lombardia e 10.000 lire in 10 anni alla Calabria? Passera approfitterebbe della distrazione dei calabresi e si ripigliasse a purgri 10.000 lire. Paccate di milioni al nord, briciole al sud, accusato anche di essere incapace di saperli spendere, ma ci provasse Zaia ad amministrare le risorse che è costretta ad amministrare Scopelliti, con una differenza di infrastrutture sul territorio dovuta a 140 anni di finanziamenti promessi e mai erogati. Scusate, provate a sentirvi dei meridionali se non lo siete. E qui in questi momenti suggerisco a Borghezio di starmi molto alla larga, perché sennò a calci in culo l'accompagna alla ricerca dei confini della Padania e rischiamo di metterci anni. Ora capisco quali sono quelle ragioni culturali, storiche, di cui ho sempre sentito parlare per lo stato d'arretratezza del Sud. Nel 1861 fummo rovinati in nome dell'unità, nel 1887 lo fummo in nome dell'industria, poi in nome della guerra, in nome del fascismo, della battaglia del grano, in nome della ricostruzione postbellica, in nome del miracolo industriale. Ora vogliono rovinarci in nome del federalismo fiscale e dell'Europa unita. E non è la rovina che ci disturba oramai, no, è la monotonia, o no? C'è una musica in quel treno che si muove e va lontano, musica di terza classe in partenza per Milano. C'è una musica che batte come batte forte il cuore di chi parte contadino ed arriverà a Terrone. Hey! C'è una musica in quel sole che negli occhi ancora brucia, nell'orgoglio dei braccianti, figli della Magna Grecia, in quel sogno di emigranti, grande come grande il mare, che si porta i bastimenti per le Americhe lontane. E chi parte oggi per tornare crai, e chi è partito ieri per non tornare mai. E chi parte oggi per tornare crai, e chi è partito ieri per non tornare mai. Grande sud che sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il sud nel cuore. Grande sud che sarà quella musica del ghetto di chi va per il mondo e si porta il suo dialetto. E sarà quel racconto e sarà quella canzone che ha a che fare coi giganti e coi santi in processione, che ha a che fare coi perdenti della civiltà globale, vincitori della gara a chi è più meridionale. Ma siete stati a Mongiana? Siete mai stati? Io no. Tu no, non siete no. stati a Mongiana, vabbè. Forse sì, magari in tournée d'estate. Sì, sai. Poi chissà se si sanno chi dove si trova a Mongiana. E chi l'avrebbe mai detto che proprio fino al 1861 e poco oltre, proprio in Calabria, si trovava la più grande fabbrica siderurgica esistente in Italia. Siderurgia e Calabria. Nel mio immaginario sono come cane e gatto, giorno e notte, latte e vino, non li mischieresti mai, insomma. Ci sono voluto andare a Mongiana, viaggio tra le meravigliose foreste delle serre calabre, poi arrivi a questo paese in fondo alla strada, sulla destra, ruderi di mura enormi, un'area gigantesca dove solo fino a 150 anni fa si produceva acciaio e ghisa. I monti in quella zona sono ricchi di materiali ferrosi, si produceva ferro dai tempi dei Fenici. C'è voluta l'unità d'Italia per farci smettere. Sono sceso nei ruderi, sono entrato in uno degli alti forni. È stato come entrare nella carcassa di un gigante. Come sempre, alla fine di una civiltà bruscamente interrotta, restano in piedi i templi, i palazzi del potere, l'ossatura. Senza più carne, sangue, pelle di una capacità economica vampirizzata. Mute cattedrali di dei senza più sacerdoti. Si agì con ferocia, una capacità umana di esperienze tecniche enormi andò distrutta di botto. Poco dopo il 1861, nel giro di pochi anni, l'importante patrimonio industriale del Regno delle Due Sicilie è sminuito a torto o ad arte. Venne smantellato dalle fabbriche di Pietrarsa al comparto tessile del Frusinate, le seterie di San Leucio, le acciaierie calabresi, l'impero dei Florio. Non fu soltanto il Mezzogiorno a perdere quella ricchezza, quella possibilità di crescita, ma l'Italia intera, che l'egoismo, mentre sembra darti nell'immediato, ti leva nel futuro, moltiplicato. La acciaieria calabrese rappresentavano un elemento di squilibrio nei piani e nei pregiudizi. L'industria italiana doveva essere settentrionale. Gli altiforni di Mongiana, che erano i più grandi e più tecnologicamente avanzati d'Italia, furono ribattezzati Cavour e Garibaldi, invece che San Francesco e San Ferdinando, dal nome dei re napoletani che l'avevano voluti e pagati. E poco dopo furono spenti. impiegavano ancora oltre 1200 operai, più tutto l'indotto. Beh, se non è un'amputazione questa. Nacque prima la fabbrica, poi il paese. Chiusa la fabbrica, beh, anche il paese cominciò a morire. La gente cominciò ad emigrare. Da allora le nostre migliori forze di intelligenze le abbiamo spese lontano da casa. Ad una conferenza d'estate a Mongiana, alla presenza di autorità locali, comunali, provinciali, di parlamentari sensibili al problema, beh, i meridionali, gli emigranti a casa per le vacanze, raccontavano la propria esperienza di emigranti, un inno alla nostalgia, agli affetti persi, al disadattamento al nuovo ed al diverso, il dolore e la speranza. Quando fu il suo turno, un emigrante salì sul palco e in faccia ai pezzi grossi raccontò in versi e nel suo dialetto la propria storia di emigrante e disse così: disperato era raro paese, maritato con 5 creature, lavorava 30 giorni a romese e mestiere faceva zappature. Per mia non c'era mai festa e patuta e pure la fame. Notte e giorno mi raspavo la testa che per i figli non avevano lo pane. Aiuto hai cercato allo comune e dato non m'hanno manco speranza. Andando le capia di vagabonde mangione insieme a Rosinnaco s'inghiena la panza. Governo tedesco benedetto a tutti ci destino lavoro e noi per chissu ti siamo grati. Lo distacco dall'Italia è stato assai duro, partimmo pieni di tristezza. Alla Germania trovammo lavoro e presto arrivava la contentezza. Governo italiano, cosa tinta? Di leggi tu tinti la gazzetta, ma chi se lo fai solo per finta? Se lo primo che non le rispetta. Alla Germania mi faceste emigrare, l'oceano pigliavo solo solo, e mo che ci trovavo lo buono stare. Governo italiano, bafanculo! Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno, addio, addio amore, io vado via, amara terra mia. Amare bella, cieli infiniti e volti come pietra, mani incallite ormai senza speranza, addio, addio amore, io vado via. Amara terra mia, amare bella. Amara terra mia, amare bella. Il giorno 6 agosto a Ponte Landolfo, in provincia di Benevento, si tiene l'antichissima fiera di San Donato. Il viale che dalla strada provinciale porta alla piazza principale attraverso lo spiazzo della chiesa di San Donato è gremito di almeno 5.000 persone provenienti da altri paesi. Durante la processione giungono anche gli insorti di Cosimo Giordano, accolti festosamente da tutta la gente al grido di «Viva Francesco II!». Il 7, Casalduni, a pochi chilometri da Ponte Landolfo, è semideserto. Numerosi sono a Ponte Landolfo per la fiera. Verso le 18, qualcuno porta la notizia che alla fiera di San Donato è giunto il Giordano e il suo gruppo, che ovunque sventolano i vestiti delle due Sicilie e che hanno proclamato un governo provvisorio. Gli abitanti rimasti si riversano spontaneamente per le strade, si dirigono verso la caserma della Guardia Nazionale, scardinano l'ingresso, si impadroniscono delle armi e delle munizioni e abbattono gli stemmi saoiardi. Il generale Maurizio De Sonnaz, per sedare la rivolta di Ponte Landolfo e Casalduni, invia da San Lupo un drappello di 45 uomini al comando del tenente Cesare Augusto Bracci. Alle prime ore dell'alba del 10 agosto il tenente Bracci parte da Campobasso, ma giunto in località Borgotello viene accolto da colpi di fucile, un bersagliere rimane ucciso. Gli altri si dirigono verso Ponte Landolfo e, circondati da numerosi partigiani a cavallo nei pressi della masseria Guerrera, si danno alla fuga in ordine sparso dirigendosi verso Casalduni. Inseguiti sono costretti ad un nuovo scontro a fuoco, altri due militari rimangono uccisi. Nel frangente un bersagliere, accusato il tenente Bracci di incapacità, gli spara uccidendolo. Gli altri si consegnano ai guerriglieri. Il partigiano Pica e i suoi uomini, ordinato ai prigionieri di mettersi in colonna, si dirige verso Casalduni. I guerriglieri sono accolti da una folla festante. Per i prigionieri è istruito un processo sommario, ne viene decisa la fucilazione, seguita alle ore 10:30 del giorno 11 agosto dell'anno del Signore 1861. I fatti di Ponte Landolfo e Casalduni giungono a San Lupo, al liberale Jacobelli. Costui, alla testa di 200 guardie nazionali ben armate, si dirige verso le due cittadine, ma resosi conto che ogni strada è controllata dagli insorti, devia verso Morcone. Da questa località invia un dispaccio al generale Cialdini. Eccellenza, 45 soldati tra i più valorosi figli d'Italia il giorno 11 agosto furono trucidati dagli insorti di Ponte Landolfo e Casalduni. Invoco la magnanimità di vostra eccellenza affinché le popolazioni dei due paesi sopracitati abbiano a soffrire un castigo tremendo che sia da monito a tutte le altre popolazioni del sud. Allora il generale Cialdini ordinò al generale Maurizio De Sonnaz che di Ponte Landolfo e Casalduni non ne resti pietra su pietra. Il giorno 13 agosto il generale Maurizio De Sonnaz col 18° reggimento bersaglieri forma due squadroni, uno di 500 uomini. Al comando del tenente colonnello Leonoro Negri si dirige verso Ponte Landolfo, l'altro di 400, agli ordini del maggiore Carlo Magno Melegari, si dirige verso Casalduni. Nella notte, tra il 13 e il 14 agosto, le colonne di soldati giungono alle porte dei due paesi. Sono le 3:30 del mattino. In un assoluto silenzio notturno si dà inizio alla rappresaglia. A gruppi, silenziosamente, i soldati si introducono nei centri abitati dei due paesi e ad ogni porta, ad ogni finestra di civile abitazione, nonché alle chiese dei due centri abitati, mettono fascine e paglia, insieme a stracci imbevuti di liquido infiammabile, ad appiccano il fuoco. Non si può stare, per lo gran calore. E quale rumore fanno quei poveretti la cui sorte è quella di morire abbrustoliti o sotto il peso delle macerie delle proprie case? Colti di soprassalto, svegliati nel sonno, tentano un'istintiva salvezza, ma il buio, la nudità, lo spavento, la ressa, tutte le circostanze del caso sono per loro fatali. Altri soldati sono appostati all'uscita dei due paesi e sparano su chiunque tenti scampo nella fuga. I bersaglieri fucilano chiunque gli capiti a tiro: uomini, donne, preti, bambini. Nicola Biondi, contadino di 60 anni, viene preso da un gruppo di bersaglieri e legato ad un palo della sua stalla con una fune. Prendono la figlia, Concettina, 16 anni, cominciano a stuprarla. Dopo poco la ragazza, sanguinante, sviene. Il bersagliere che la sta violentando, indispettito, si alza e la uccide. Il padre cerca di liberarsi dalla fune, ma viene ucciso anche lui. Le pallottole spezzano la fune che lo tengono legata al palo e Nicola Biondi cade morto accanto al cadavere della figlia. Intanto, nella stanza accanto, un certo Santo Pietro cerca di scappare col figlioletto in braccio. Viene bloccato dalle canaglie savoiarde. Un altro piccolo brigante, lo sventrano. Altrove un bersagliere taglia con le forbici le labbra a un ragazzo. Aveva urlato viva il re senza specificare quale. Ridono in molti intorno a Maria Izzo, la più bella ragazza del paese. Lei urla, piange, chiede pietà. Le alzano le cosce. C'è chi gliele tiene allargate. A turno le sono addosso, finché non se ne stancano. E il suo ventre serve da fodera per una baionetta. Madri impazzite vagano con i loro figli morti ancora in braccio. La mattanza dura tutto il giorno del 14. Molte donne sono prima stuprate e poi uccise. Alcune di loro cercano rifugio nella chiesa. Sono raggiunte, stuprate e trucidate davanti all'altare. Una di loro, oltre a ribellarsi, graffia a sangue il viso di un piemontese. Le sono mozzate entrambi le mani e poi è uccisa a fucilate. Le sacre ostie sono calpestate, le pissidi, i quadri, tappeti, oggetti preziosi, rubati. Il maggiore Rossi è il più esagitato, dà ordini, urla come un ossesso, è talmente assetato di sangue che infilza con la sciabola chiunque gli capiti a tiro, mentre i suoi sottoposti sparano su qualsiasi cosa si muove. Uccisi i proprietari, le abitazioni sono saccheggiate. Oro, argento, denaro, oggetti di valore, pentole, piatti, persino le posate. E poi c'è lo scempio dei cadaveri, per derubarli del denaro e dell'oro, specie alle donne, alle quali vengono strappati gli orecchini. E poi sorgeva l'alba, e poi il sole, uno splendido sole d'agosto che illuminava uno spettacolo terrificante che mai prima di allora si era visto ed abbattuto su quelle contrade. Gli abitanti superstiti e quelli accorsi dai villaggi vicini furono testimoni di una visione orribile. Tutto appariva bruciato dalle fiamme e le case annerite, dalle cui porte e finestre usciva un fumo acre ed intenso, ed ovunque cadaveri, cadaveri per lo più bruciati e nudi. Il giorno 15 agosto, il giorno dell'Assunzione della Vergine, mentre gli abitanti di Ponte Landolfo e Casalduni attendevano a spegnere le fiamme, a puntellare le poche malferme pareti, a mettere in salvo qualche masserizia, specialmente a piangere i loro morti e le loro sventure, il tenente colonnello Negri telegrafò al generale De Sonnaz: ieri all'alba per Ponte Landolfo e Casalduni giustizia fu fatta. Il generale De Sonnaz, trionfante, lo telegrafò al generale Cialdini, che compiaciuto lo comunicò all'assistente di campo di Sua Maestà Vittorio Emanuele II di Savoia, l'eroe dell'Italia. Giustizia è fatta, scrisse e aggiunse: l'azione di Negri è stata perfetta. Perfetta. Perfetta. Noi siamo figli del sole e da neve, noi siamo cielo, noi siamo stiprete. Una raggio in corpo e un tempo lontano, cacchio e cent'anni ci bruci in mano. Tiempo e un viento che inquieta sti fronte, tiempo e un mare che smuove che stonda. Tiempo passato, tiempo e sti giorni, tiempo che asciutta e tiempo che infonda. Mane che scrive e sporca una storia, fammi assassina che sagliano in gloria. Mane che rompe né femme né tempo, e che pretende né tasse né guerra. Guerra che uccide creature innocente, e sciari tutta sta gente pazzente. Gente d'amore istruita e brigante, prima brigante e dopo emigrante. Oh, ma si frate tu a me, e dimmi perché. Chiede fuoco per me, oh, e si frate tu a me, e non dimmi che te sta bandiera perché non tengo niente a dare. Ma la unità, ma la unità, ma la unità, ma la unità. Volessa deve andare su di scille, nenna ne. Volessa deve andare su di scille, nenna ne. Per le rusica lo spicca se ne gamo, spigna ne rubere gamo, fanno schiavo. Per le rusica lo spicca se ne gamo, spigna ne rubere gamo, fanno schiavo. Volessa deve andare pesce spada, nenna ne. tu resta ad avanzare, pesce spada, nennane. Per poterla subito squartare tra le funda del mare, fine nice rose. Per poterla subito squartare tra le funda del mare, fine nice rose. Volessa deve andare una paloma, nennane. Volessa deve andare una paloma, nennane. Per poter libera volare e inguagliare si divisa tutte le piemontese. Per poter libera volare e inguagliare si divisa tutte le piemontese. Volessa deve andare un brigante, nennane. Volessa deve andare un brigante, nennane. Capotta sola una montagna scura e te fa sempre paura fino a quando muore. Ma lo sai che mi è venuta proprio voglia andare a vedere i Bronzi di Riace? Non l'ho mai visti. Pare che faranno molto, chiuderanno il museo. Bisogna vederli. E ti conviene andare. Maestro, vieni con me. Partiamo da Roma adesso, quanto ci possiamo impiegare? 20 ore, 25 ore. Tu dici, ma no, un mese e mezzo. Di meno. Dai, ma sì, andiamo a vedere. Vai, dai. Pare che siano bellissime, esempio mirabile d'arte ellenica, scuola di Fidia, mica ho detto cotiche, no, quindi... Ma ci vado, va. Nonostante i ripetuti e reiterati tentativi da parte di mia moglie, devo dire, per farmi desistere, decido di partire. Ci vado con la mia macchina. Ah, che bella giornata. Metto pure un po' di musica, va. Da Roma a Napoli tutto bene. Doppia carreggiata, tripla corsia, quella d'emergenza, standard europei. Da Napoli a Salerno, strane missioni, restringimenti, fino ad arrivare alla barriera autostradale, dove, pagato il pedaggio per la strada che ho già percorso, non per quella che devo ancora fare, mi metto sulla Salerno, Reggio Calabria. Ah, 443 km fino allo stretto, 200 già rifatti a due corsie più quella d'emergenza, 92 di cantieri che ti costringono su fila indiana, su corsia unica ed accidentata, il rimanente che aspetta di diventare cantiere, per il momento a due corsie senza quella d'emergenza. Un cartello avverte che grazie alla legge obiettivo la faranno migliore, per il momento 60 km all'ora. Una serie di chicane portano fino a Eboli, dove ci poniamo il più sofisticato dei dilemmi della Salerno-Reggio Calabria. Perché Cristo si è fermato ad Eboli? Proviamo a risolverlo. Ah, Cristo si è fermato ad Eboli perché non c'era l'autostrada, semplice. B, Cristo si è fermato ad Eboli perché, vabbè, che doveva espiare i nostri peccati, però... potendo scegliere tra la Salerno-Reggio Calabria e la Via Crucis, aveva preferito il Golgota. C. Cristo si è fermato ad Eboli perché la Salerno-Reggio Calabria non è un'autostrada, non ne ha le caratteristiche, anche se annoverata come tale, e lui non aveva nessuna voglia di percorrere la statale 19 delle Calabrie. Dopotutto, era sempre Cristo. Ma oggi davanti alla mia auto, dopo Eboli, si spalanca il paradiso terrestre autostradale. Doppia carreggiata, tre corsie, più quella d'emergenza, fondo liscio, percorso litto che si va ad infilare sotto una galleria illuminata a LED. Sì o no, passato Cristo, parliamoci chiaro, è un miracolo. Subito dopo il tunnel riecco la vecchia A3, con più o meno la corsia d'emergenza. E così sarà. Fino allo stretto, perché il rifacimento della Salerno-Reggio Calabria prevede il rifacimento dei primi 50 km a sud di Salerno, a due doppia carreggiata, a tre corsie più quella d'emergenza, i rimanenti 400 scarsi a due corsie più quella d'emergenza, cioè più che rifacimento è il facimento della corsia d'emergenza. Avevano pensato bene di non farla, facendo le carreggiate più piccole di 2 metri circa e uno stretto camminatoio laterale che avevano chiamato mulo pedonale. Ma che simpatici che sono. Io capisco una cosa, la Salerno-Reggio Calabria non è un'autostrada, è la traduzione in asfalto di un'idea. Il sud è meno. Lo riconoscete? È la teoria che ci segue dall'inizio, o primo teorema di Pino Aprile. quando bisogna fare qualcosa in Italia, lo Stato italiano, arrivata al sud, non la fa. E se sì, dopo e meno, sempre per buone ragioni, si capisce, certo, si dovranno accontentare, ma meglio di niente. Poi c'è sempre l'elemento dello scarto laterale. Diciamo, invece di fare queste strade, chi ci passeggiano? Le pecore, ma facessero le scuole, facessero gli acquedotti, che sempre è il discorso di qui sopra. Cioè, se al nord devono fare le strade e le scuole, le fanno. Se devono farle al sud, bisogna scegliere. Vuoi la strada o vuoi la scuola? Ma se non mi fai sta strada, come cazzarola ci arriva sta scuola? Dice, vabbè, però non si paga il pedaggio. La mobilità delle merci sulla A3 è unidirezionale. Su 100 camion che la percorrono, 99 portano merci dal nord al sud, una dal sud al nord. Vuol dire che quel costo in meno del pedaggio favorisce una volta l'imprenditore meridionale e 99 volte l'imprenditore del nord. Poco prima dello svincolo Polla a Sala Consilina, vistoso cartello: per Reggio Calabria. Se non capisci che indica il percorso alternativo, ti ritrovi a frittole nel passato. Deviazione, restringimento, corsia unica, frena! Camion davanti. Deviazione, restringimento, frena! Pullman. Restringimento, deviazione, frena! Ape car con famiglia a bordo. Chiamo a casa. Pronto, amore? Dovesse succedermi qualcosa? Lo so che non ti interessa molto, ma casomai denuncia allo Stato. Ma come, perché? Ma per omicidio colposo. Dice, vabbè, la stanno aggiustando, è vero. Io me la ricordo da sempre così. Infatti ecco là, la frana del Sirino. Lì l'autostrada appena costruita cedette. Un tratto mai percorso, mai rifatto. Ci stanno pensando adesso dopo 40 anni. E così, fra deviazioni, restringimenti e corsie uniche, sempre alla velocità massima di 60 km all'ora, arriviamo fino a Tarsia, dove troviamo il tratto già ammodernato, con corsia d'emergenza fino a Cosenza, velocità consentita 80 km all'ora. Ma come? Eh sì, è il manto stradale, è dissestato, ma è stato appena rifatto. E che vuoi fare? L'andrangheta impone il pizzo, le ditte sono costrette ad imbrogliare sui materiali. La A3 fece dell'andrangheta la più moderna delle mafie, era la più arcaica. Queste grosse ditte del nord che hanno vinto gli appalti per la costruzione, arrivate al sud, non persero tempo, pagarono il pizzo alla mafia ed andarono avanti. Nel 2005 un rapporto della Fillea rivelò che una grande impresa facente capo alle cooperative rosse, un'impresa di costruzione, la CPC, su una tratta di sua competenza di 30 km, aveva subappaltato a 170 isole, un appalto diverso ogni 33 metri circa. Il primato spettava la Leonardo Costruzioni con un appalto lordo di 1.500 euro. Queste grosse imprese del nord, che vincono gli appalti con forti ribassi, arrivati al sud non hanno voglia di perdere tempo. Paghiamo questo 3% di pizzo alla mafia e si levassero dai coglioni. E così le imprese più o meno mafiose, per guadagnarci più o meglio, sono costrette ad imbrogliare sui materiali. Da un'intercettazione telefonica le indicazioni erano chiarissime. Ietta una bella poca immunizza sotto, n'ha leccati e bitume sopra, e intucula tutti quante. E così ripigliamo il viaggio da Cosenza inepricandoci su per il secondo massiccio calabro, la Sila, sempre con un camion davanti, che c'ha un rubicondo omino Michelin sulla cabina, che comincia ad essere illuminato, perché intanto si è fatta notte, la fila è sempre più lunga, il tachimetro è sotto i 60, oramai si vergogna, tace, diventata una tribù, eravamo una fila, ci conosciamo tutti, nascono amori, probabilmente anche qualche bambino. E così, sembra la devazione, restringimento e corsie uniche, arriviamo fino a Gioia Tauro, dove troviamo la più lunga tratta già ammodernata nella zona a più alta densità mafiosa d'Europa. Vorrà dire qualcosa. I meridionali sanno che quando lo Stato italiano deve fare qualcosa al sud, si affida all'organizzazione più stabile, più efficiente, pronta a cogliere la modernità, disponibile al compromesso, riconoscente alla politica. La mafia, che non impone, signori, non impone, perché dovrebbe, partecipa. Eccola, le gru del porto di Gioia Tauro. È il più grande del Mediterraneo per i portacontainer, terzo d'Europa, 14esimo in tutto il mondo. per la cocaina il primo della galassia. E così, tra deviazioni, restringimenti e corsie uniche, ci inerpichiamo sul terzo massiccio calabro, l'Aspromonte, sempre con l'omino Michelin del nostro camion davanti e una stella cometa. E attraversiamo un tratto strettissimo a centinaia di metri a picco sul mare. Se l'omino Michelin scureggia, qua fa una strage. L'ultimo tratto sono due vecchie corsie, ma paiono enormi. Oh, dopo tutte queste ore di viaggio, ce la siamo meritata la visita ai Bronzi di Riace o no? Reggio Calabria, meravigliosa, col suo stile architettonico inconfondibile, il non finito Calabro. Ecco, col suo più bel lungomare d'Europa, come disse il Vate, benché coglione, sempre Vate era. Cerchiamo il museo, eccolo là. Ma la statua è completamente al buio. E la lampadina si fulminava. Ma come, proprio oggi che sono venuto io? No, è fulminata 6 mesi. Ah beh, pensavo che fosse una cosa proprio personale contro di me. Se mi dai la lampadina e una scala, io te la cambio, mica no. Ma no, è una lampadina speciale a luce fredda, l'abbiamo ordinata, ma mo che arriva che si chiuda. Ma perché, quando chiudete? Chiudiamo a settembre, e ma è ancora giugno. E perché ci manca, no? E vabbè, torno sull'autostrada, non c'è altro modo di tornare. E vicino Castrovillari, sotto i giganteschi contrafforti del Pollino, stazione di servizio, panini da camionista. Qui facciamo tutto quanto noi, dottore, pure il pane, anduia no, però compriamo la migliore. Lui spacca la pagnotta, tu ordini il cocktail di calabreserie vegetal casearie da stratificarci dentro. Una bomba, anche per via del peperoncino, che scivola nel nerello di Cirò. Le piace quello che si sta mangiando, dottor? Ma si ferma un'altra volta se si ferma da queste parti? Ma lo so dove l'abbiamo prese le verdure, qui sul Pollino. Lo conosce il Pollino? E sembra che non ti sei fermato in un autogrill, no? Ti sei fermato a casa loro perché sono impazienti per il riconoscimento dell'ospite. E vabbè, sono ragazzi, sanno cosa significa avere questo loro lavoro. Sono coscienti della natura maestosa che li circonda. Le cascate si vedono dall'autostrada, i maestosi pini loricati che crescono solo qui. Ma tu non riesci a cogliere esattamente quello che vorrebbero dirti, perché forse non ne sono capaci. Non fai domande, non ti interessi a loro, alla loro maestosa montagna che solo attraversi sulla tre maledicendo le troppe deviazioni, restringimenti, corsie uniche. Ma glielo leggi in faccia, nella premura immeritata che hanno verso di te. Dottore, qui c'è qualcosa che vale. Qui c'è molto che vale. Ma perché non lo vuole sapere? Torno in macchina, con addosso un velo della loro disperata ostinazione di svelare prima o poi. Torno a Roma e dopo qualche tempo mi giunge una multa. 375 euro, eccesso di velocità. Si può dire, le mortacci vostre? Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori i denti. Mi servo tempo fa, intera piazza pregava Cristo in croce e ci dicia: Cristo, lumi padroni, mi strapazza, mi tratta come un cane per la via, e manco la vita mia dice che è mia, si piglia tutto con la sua manazza, distruggila Gesù, sta mala razza, distruggila Gesù, fallo mia, sì, fallo mia. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori i denti. tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Quando uno è un po' storico, non sogna mai a caso. Mi trovavo in un'aula di tribunale ed avevo addosso una toga. No, non era una toga rossa, era una toga nera normale con dei fregi dorati. Shh, entra la corte, composta da tre giudici. Tutti ci alziamo. I giudici si siedono, tutti ci sediamo. Il rito mi ha sempre affascinato. Poi il giudice centrale si alza e fa: si introduca l'imputato. Da una porticina laterale entra un signore basso, tutto ricurvo, con le gambe arcuate, ha i capelli stoppacciosi, biondicci, di un colore strano, improbabile, tipo colori capelli di Don Matteo. Ma che colore è? Sotto i quali si indovina un orecchio mozzato. Ah, è un ladro di cavalli. Ha una strana mantella colorata addosso. Mi fissa con uno sguardo lattiginoso, catarattico. Si dirige verso la barra degli imputati. Poi il giudice centrale si alza e fa: generale Giuseppe Garibaldi, giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? E Garibaldi, sta scimmia, è Garibaldi. Ma come? Io ho sempre studiato che era alto, biondo, occhi azzurri, testa d'oro, un arcangelo Gabriele che sul suo bel destriero bianco veniva per salvarci. Ma vedi che non bisogna mai fidarsi dai libri di scuola. E lui, in uno strano italiano, sporco di genovese, portoghese, sudamericano, francese, che non saprei riprodurre, fa: lo giuro. Poi guardano tutti me, capisco che lo devo interrogare, ma sale il panico. Sì, lo so cosa state pensando, anche a me così a freddo mi verrebbe di fargli centinaia di domande, ma all'improvviso, in un sogno, in un'aula di tribunale, non mi è venuto niente di meglio che: generale Giuseppe Garibaldi, lei quanto è alto? Ma che domande de belime fai questo? Generale, risponda alla domanda, disse il giudice centrale, come se tutto il risorgimento dipendesse da quella risposta. E lui rispose: io sono alto 1,60 m, un metro e sessanta, confesso che lo facevo più basso, forse per via del fatto che cammina tutto quanto rattrapito, e lui come se ascoltasse i nostri pensieri. È l'artrite che me frega, carecla. A proposito, potete dir de levar in giro per il mondo le statue de me che stanno all'aperto? La notte è l'umido, me massacra, carecla. Ma generale, proveremo a dirlo, ma vede, c'è il problema che magari se le levano non le metteranno più da nessun'altra parte, eh? Poi cominciai ad interrogarlo in maniera diretta. Come fece con soli 1,000 uomini a conquistare un regno che contava centinaia di migliaia di soldati? Muy claro. Pagando. Ma come? Con grosse somme di denaro, Belin. O premettendo incarichi, premi, prebende. Mi ricorda qualcosa di recente. Poi lo incalzo. A Teano ho consegnato il regno nelle mani di Vittorio Emanuele II di Savoia. Erano i patti, giovanotto. Gioia dover fare l'Italia, ero pagato per questo, non c'era altro modo di farlo. Sì, ma a che prezzo, generale? Giovanotto, la storia non si scrive facendo all'uncinetto, come faceva il mio amico Giuseppe Mazzini, o tramando nell'ombra, come faceva il mio nemico, il conte Benzo Conte de Cabur. Piu! Generale, per favore, eviti di sposare, imputare, ma presi in un occhio. Sì, ma ne valse la pena. Giovanotto, gioia, sono passata la storia come generale vittorioso. Ma la storia dell'unificazione dell'Italia è la storia di un'unica grande sconfitta. Quella Italia per cui tanto pugnammo, combattemmo, morimmo, alla fin quando venne si risolse in una bagattella dei mercanti che cambiarono la nostra libra di carne con una partita di legname. Noi sognavamo una grande repubblica, giovane, libera, forte, una grande repubblica popolare. E ci ritrovammo in mano una piccola monarchia borghese con un roi de merde. Tu, generale, eviti di sputare perché sta facendo le mesh. Ma oggi lei cosa farebbe se fosse vivo? Combattere! Ma come? Sì, alla testa di un esercito, dei meridionali, nordafricani, greci, contro un nord ricco ed opulento, prepotente e senza scrupoli. Ma non trovo contraddittorio, generale, prima contro il Borbone, poi a fianco dei meridionali. Giovanotto, già hai combatto por la verità ovunque essa si trovi, e ricorda che chi non conosce la verità è uno stolto, ma chi conoscendola la chiama menzogna, è un delinquente. Ma adesso devo andare, giovanotto, devo cercare il campo di battaglia. E ricorda, la guerra è la verdadera vita dell'ombre. Cosa dice, generale? La guerra è la verdadera vita dell'ombre. Generale, non si capisce cosa dice. La guerra, ma lo dica in italiano, perché non... La guerra è l'unico modo in cui l'uomo può vivere, la vera vita dell'uomo. Hasta la victoria, siempre! E se ne va, come una pazza. Ma io adesso che me ne faccio di questo fardello che mi ha lasciato, questa povera pazza? Ma mica posso andare in giro a dire, sapete, ho sognato Garibaldi e mi ha detto che se fosse qui con noi combatterebbe al nostro fianco, perché chi non conosce la verità è uno stolto, ma chi conoscendola la chiama menzogna è un delinquente, e che c'è solo un modo per cambiare le cose, dice lui, la guerra, la guerra, la guerra! Mille garofani strappati dai giardini, mille corone di diamanti e di rubini, mille bandiere sotto il sole di Sicilia. Questa è una guerra di giustizia e così sia. Questa è una guerra di giustizia e così sia. E sono mille che hanno attraversato il mare per camminare tra le arance e le fiumare. E tutto il popolo fa feste e mena rose. Questa è una guerra e cambierà tutte le cose. Questa è una guerra e cambierà tutte le cose. Mille soldati per una promessa sola. La terra finalmente andrà chi la lavora. E non ci sarà più chi serve e chi è padrone. Questa non è una guerra, è una rivoluzione. Questa non è una guerra, è una rivoluzione. Mille fanti, mille naviganti, mille marinai e un generale. Mille fanti, mille naviganti, mille marinai e un generale. Mille camicie per giocare a questo gioco. Mille paesi che son messi a ferro e fuoco. Chi sopravvive morirà a fenestrelle. Questa è una guerra come tutte le altre guerre. Questa è una guerra come tutte le altre guerre. Che bella favola che ci hanno raccontato, che bella storia che è la storia d'ho passato, che bella Italia che sa da sapere a memoria, perché sta scritto in coppi libri della storia. Mille fanti, mille naviganti, mille marinai e un generale. Mille fanti, mille naviganti, mille marinai e un generale. Forse non tutti sanno che l'unico meridionale che ha goduto di un finanziamento di oltre 5 milioni di euro da parte del Comitato per le celebrazioni del 150esimo dell'Unità d'Italia si chiama Giuseppe Villella, del quale da circa 140 anni il Museo Antropologico di Torino possiede il cranio. Il quale cranio è la prova provata che i meridionali e in fattispecie i calabresi sono dei delinquenti naturali. Ci viene spontaneo, siamo fatti proprio così. Ma chi è il luminare artefice di questa scoperta? Ezechia Marco Lombroso nasce a Verona nel 1835. La curiosità per i poveri, gli emarginati, i folli è se presente sin dagli anni giovanili, quando medico condotto gira per le campagne lombarde distribuendo opuscoli stampati a proprie spese ai contadini vittime di pellagra. Invece l'interesse per la delinquenza insorge nel 1864, osservando i tatuaggi dei soldati e le frasi oscene tatuate che distinguevano, a dir suo, il soldato disonesto in confronto al soldato onesto. Ora, il Lombroso capisce subito da solo che non basta un tatuaggio ad identificare un delinquente, ma che è necessaria, lo dice lui stesso, il metodo sperimentale della scienza positivista. Nel 1870 il Lombroso sottopone ad autopsia il cadavere di Giuseppe Villella, brigante di 70 anni, nato a Motta Santa Lucia, circondario di Catanzaro, condannato per ben 3 volte per delitti odiosissimi. Aveva sequestrato, fatto a pezzi e mangiato le proprie vittime. Sì, aveva rubato delle galline e se l'era fatta in brodo perché aveva fame. L'esame del cranio rivelò un'anomalia che il Lombroso definì fossetta occipitale mediana, spazio normalmente alla cresta occipitale. Ora, se qualcuno che sta in ascolto ha un calabrese a fianco, provi a toccarlo nella parte posteriore del cranio. Se nota la fossetta invece della cresta, suggerisco vivamente di stare attenti ai portafogli. Io vi ho avvertito, poi fate come vi pare. Ecco come il Lombroso ricordava il proprio stato d'animo a quella scoperta. Alla vista di quella fossetta mi parve come una larga pianura sotto un infinito orizzonte. Risolto il problema della natura del delinquente che doveva riprodurre ai nostri giorni i caratteri dell'uomo primitivo, zu, fino ai carnivori. Il Lombroso si convince che la fossetta non è presente negli individui normali, ma che è presente soltanto nei crani dei pazzi, e che criminali si nasce. Pazzi, criminali, selvaggi, delinquenti, hanno tutti un'unica radice atavica. L'oramai famosissimo scienziato si stabilisce a Pavia, dove si dedica allo studio complessissimo sul cretinismo, una complessa situazione fatta di varia gravità, caratterizzata dalla presenza di un gozzo cistico e dall'arresto delle facoltà corporee e intellettuali che determinano idiozia e nanismo. Non so se ci avete presente, tipo Brunetta, ecco. Trova in Piemonte il cranio del cretino. Purtroppo non abbiamo delle diapositive, ma non vi possiamo diapositiva perché il proprietario è ancora in circolazione di questo cranio. Il padre assoluto della fisionomica determina che i caratteri facciali che si osservano più spesso all'esame del delinquente sono asimmetria facciale, tipo Calderoli, inespressività del volto, non so, Bondi, che so, ci sta Fassino, perché là ci sta una confusione, sì. Pronunciato sviluppo delle mantibole, Belpietro, mamma mia, che male panza. Sottigliezza delle labbra, Tremonti, chi ci sta ancora? Ce ne stanno tanti. Castelli, foltezza dei capelli, Forrest Bossi Gump, eccolo là. E nominiamo anche questo, è sparito perché l'hanno proprio beccato a rubare oro, diamanti. Giustamente è sparito dalla circolazione, adesso ci sono i suoi adepti. E così il padre, l'autorevolezza del Lombroso è sempre in crescendo. E nel 1892 il complesso universitario di Torino finanzia il museo antropologico psichiatrico del Lombroso con una somma straordinaria di 500 lire e l'impegno a versarne altri 1000. Questi sì che sono soldi spesi molto bene. Oramai in tarda età il pioniere si dedica a studi avveniristici in campi inesplorati. La notizia che si dedica allo spiritismo è una bomba. Osteggiato dal mondo accademico, si chiude in casa, si dedica allo studio degli acari, delle zecche, raggiunge risultati impensabili nello studio dell'osservazione delle pulci. Ecco, abbiamo trovato un suo taccuino dal quale vi possiamo mostrare un suo esperimento. Lo scienziato prende la pulce, gli strappa una zampa, la poggia sul tavolo, le dice di saltare. La pulce salta ed egli annota sul suo taccuino: la pulce senza una zampa salta. Poi prende la pulce, strappa una seconda zampa, la poggia sul tavolo, le dice di saltare, la pulce salta ed egli annota sul suo taccuino: la pulce senza 2 zampe salta. Poi prende la pulce, strappa la terza zampa, presa da Raptus, gliele strappa tutte quante. Ma si va a fanculo pulci in merda. La poggia sul tavolo, le dice di saltare, la pulce non salta ed egli, colto da folgorazione illuminante, annota sul suo taccuino: la pulce senza le zampe diviene sorda. Queste. Oramai a 70 anni, all'improvviso, il fiore migliore dell'ingegno padano morì. Dispose che il suo corpo venisse meticolosamente dissezionato affinché la scienza potesse studiarlo. Beh, coerenza. Ecco, l'esame autoptico rivelò un'accentuata arteriosclerosi. Rivelò inoltre che il peso del cervello era notevolmente inferiore alla media e contrassegnato da numerose pieghe di passaggio. segnali inconfondibili che per Lombroso e la sua scuola avrebbero denotato la tipica natura dell'alienato e del criminale. Sud, sud, noi simmo lo sud, noi simmo curte e nire, noi simmo buone per cantare, ma faticamma a faticare. Sud, sud, venimmo lo sud e camminammo a bere. Radicio di ebra arriva, perché venimmo sud. Io sono o mare, io cielo blu, o mandolini o putipù, e a pummarolo, a porra a pizza mozzarella, cori mamma tarantelle, mancarone. Per magna, non file voce per cantare, e ovvero non gli avevo, ma faciteci un piacere, perché venimmo sud, coro. Sud, sud, noi siamo sud, noi siamo curte e nere, noi siamo buone per cantare. Fatica ma fatica, sud, sud, venimmo sud e camminammo per radicio per arrivare, perché venimmo sud. Facciteci un piacere, perché noi siamo sud. Ciao, io sono il sud. Ciao, anche io sono il sud. No, scusa, non hai capito bene, io sono il sud. No, scusa, non hai capito bene tu, anche io sono il sud. A me manca una gamba. A me no. Ma come, ne è una sola? Ma io ne ho sempre avuta una. Ma non è vero. Ci fu un tempo in cui ne avevamo due. Che fantasia! Ma non è fantasia, è la verità. E come fai ad essere così sicuro? Beh, ho trovato i documenti. Che documenti? La cartella clinica. Di che? Dell'amputazione. Ah, però, io non lo sapevo. Questo vogliono, che non si sappia. Ma noi... noi ci stiamo organizzando. Noi chi? Noi meridionalisti. Meridionalisti? Meridionalisti. E cosa vuol dire meridionalista? Beh, per ognuno vuol dire qualcosa di diverso. Per esempio, qualcuno è meridionalista perché è nato a Catanzaro. Qualcuno è meridionalista perché è nato a Torino, ma da genitori nati a Catanzaro. Qualcuno è meridionalista ed è costretto a scappare dal sud. Qualcuno è meridionalista e non lo sa. Qualcuno è meridionalista e non sa che siamo in tanti ad essere meridionalisti. Qualcuno è meridionalista perché nonostante tutto ha un'impresa in Calabria. Chapeau. Qualcuno è meridionalista perché l'anduia, la burrata, i cannoli siciliani, la pizza, l'hanno inventata a Napoli, dai. Qualcuno è meridionalista perché Cavour era di Torino, Mussolini di Predappio, Craxi di Milano, cazzo è troppo. Qualcuno è meridionalista perché il papà di Gramsci era nato a Gaeta. Qualcuno è meridionalista perché sa che la questione meridionale è cominciata con l'unità d'Italia. Qualcuno è meridionalista perché sa che l'emigrazione del sud è cominciata dopo l'unità d'Italia. Qualcuno è meridionalista perché gli imprenditori del nord da sempre sono alleati con i mafiosi del sud. Qualcuno è meridionalista perché sa chi sono Berlusconi e Dell'Utri. Qualcuno è meridionalista perché già Salvemini chiamava Giolitti il ministro della malavita. Qualcuno è meridionalista perché la Campania preunitaria era la regione italiana col più alto reddito pro capite. Qualcuno è meridionalista perché l'invasione delle due Sicilie da parte del Piemonte ci è costata 1 milione di vittime. Qualcuno è meridionalista perché il sud è il bancomat dell'Italia del Nord. Qualcuno è meridionalista perché non può accettare che le assicurazioni auto al sud costano il doppio, il triplo, il quadruplo di quanto non costino al nord. Qualcuno è meridionalista perché è inaccettabile che oltre 100.000 ragazzi all'anno, laureati, partano dal sud in cerca di lavoro al nord. Qualcuno è meridionalista perché non si può accettare che Milano, per godere dell'incentivo alle imprese, sia inclusa nelle zone depresse. Qualcuno è meridionalista perché è inaccettabile che con i fondi europei per il mezzogiorno ci si paghi la truffa delle quote latte, 100.000 forme di parmigiano invenduto, la navigazione sul Garda, l'illuminazione nel Veneto, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno è meridionalista perché non si... il sud è l'unica macro regione europea priva di una grande banca e un nord ricco non esisterebbe senza un sud povero. Qualcuno è meridionalista perché il primo, il secondo e il terzo polo certamente non sono meridionalisti. Qualcuno è meridionalista perché conosce la storia e ricorda Bronte, Ponte Landolfo, Casalduni, Campolattaro, Andria, Gravina, Torre Maggiore, Cerano, Eboli, Portella della Ginestra, Torre Menissa, Gioia del Colle, Gioia Taura, Ustica, Falcone, Borsellino, Pio La Torre, Rocco Chinnici, Libero Grassi, il giudice Scopelliti, Angelo Vassallo, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno è meridionalista perché non ne può più di 150 anni di governi mafiosi e del nord. E se qualcuno non è meridionalista, non lo è perché è in malafede. Se qualcuno non è meridionalista, non lo è perché è erroneamente convinto che essere invasi fu un bene. Se qualcuno non è meridionalista, non lo è perché mettersi in discussione è molto doloroso. Per essere meridionalisti non è necessario essere nati al sud. Ce lo insegnano i tanti meridionalisti del nord, specie lombardi, che per un'Italia migliore hanno sacrificato la propria esperienza e la propria vita. E questo è anche il nostro grazie. Essere meridionalisti è giusto, è un'idea nuova, si nutre di verità, perché una nazione che non riesce a fare i conti con la propria storia non diventerà mai una patria. Perché noi siamo Rossud.